sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Banche attente alle famiglie, nella giornata del risparmio l'appello del governatore Draghi. Intervenire subito per arginare la crisi, ammonisce anche Napolitano. E intanto, insieme ai consumi, cala l'inflazione. A ottobre scende al 3,5%. Il Consiglio dei Ministri applaude Maria Stella Gelmini, restano le polemiche per gli scontri a Piazza Navona, colpa dei ragazzi di sinistra, dice il governo. Slitta ancora il giro di vite contro i graffitari, nessun accordo, si deciderà in Parlamento. Ed è corsa contro il tempo per Alitalia, a mezzanotte l'ora scade l'ora per presentare l'offerta, il governo prova a ricucire tra CAI e sindacati. Catania riaccende le luci, ecco il primo effetto del prestito per risanare le casse dello Stato. Tu sei preoccupato per i tuoi risparmi? Quali risparmi? Risponde in questa vignetta sull'Avvenire l'interlocutore. Una vignetta per introdurre l'argomento della giornata, quello del risparmio, un tema quanto mai d'attualità. E buongiorno ovviamente da Anna Migliorati e Alessio Maurizi. Sono 84 su 100 gli italiani che arrivano con difficoltà a pagare la rata del mutuo. Lo rivela un sondaggio Confesercenti SVG. La gravità della crisi economica impone provvedimenti immediati. È intervenuto oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della giornata del risparmio. A fargli eco anche il governatore di Banca Italia Mario Draghi. Insomma, davvero è il tema di oggi. E allora andiamo proprio a Roma, dove accanto a Draghi c'è anche il ministro dell'economia Tremonti, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. La crisi finanziaria e i suoi effetti in primo piano negli interventi qui alla giornata del risparmio, ma anche le prospettive sul medio termine per l'economia. Sulla base dell'evoluzione della domanda mondiale oggi prevista dai principali organismi internazionali, ha detto il governatore della Banca d'Italia Draghi, la stagnazione in atto proseguirà almeno fino a metà del prossimo anno. Poi, così Draghi sull'Italia, ascoltiamo le sue parole. In Italia i provvedimenti adottati hanno tranquillizzato i risparmiatori, stanno alleviando le tensioni sul mercato interbancario. La solidità dei bilanci bancari e chiari impegni delle autorità garantiscono la stabilità del sistema. I depositanti delle banche sono al sicuro. L'impegno a ridurre il debito non viene meno. Pur nel pieno della crisi, la politica economica non deve dimenticare i nodi di fondo dello sviluppo, le politiche strutturali di cui abbiamo indicato da tempo la necessità. Il rapido peggioramento del ciclo economico ne accentua l'urgenza. L'economia italiana soffrirà, come tutte le economie avanzate, le conseguenze di questa crisi. Se si attesta sul suo baricentro, fatto di alto risparmio, basso debito privato, sistema produttivo vitale, sistema finanziario fondamentalmente solido ed efficiente, sopporterà la crisi con danni limitati e buoni presupposti per una ripresa. L'intervento dello Stato contro la crisi, ha aggiunto Draghi, deve essere temporaneo e non intrusivo. Poi un messaggio, lo abbiamo ascoltato, rassicurante ai risparmiatori, depositanti delle banche sono al sicuro, ha detto ancora Draghi. Sul rapporto Stato-mercato finanziario è intervenuto anche il ministro dell'economia Tremonti. Il suo intervento, cioè del governo, ha detto Tremonti, deve essere transitorio, strumentale di finanziamento, ma solo se è necessario. Ascoltiamo allora il responsabile del Tesoro. Il finanziamento all'economia, il credito, si fa con soldi veri e non con soldi inventati, e appunto con il risparmio. Ed è questo un ordinamento, un sistema nel quale pienamente ci riconosciamo. E in questi termini formalmente dichiariamo che non riteniamo compito del governo fare banca. Avere azioni di banca può essere solo una transitoria, strumentale necessità. Il sistema bancario, è intervenuto il presidente dell'ABI Faissola, le misure varate dal governo, ha auspicato Faissola, devono comunque garantire il carattere privatistico del sistema del credito italiano. Il presidente dell'ABI ha poi sottolineato la solidità del sistema del credito italiano. Sentiamo. Quello delle banche italiane nella crisi è dunque un coinvolgimento sostanzialmente indiretto. La composizione dell'attivo delle nostre banche evidenzia, in misura relativamente prevalente, finanziamenti a clientela, soprattutto piccole e medie imprese. Il complesso dei dati di cui disponiamo induce a ritenere che non vi siano al momento segnali di restrizione creditizia né sul fronte della quantità dell'offerta né su quello dei prezzi praticati. Infine il Capo dello Stato, in un messaggio inviato qui alla giornata del risparmio, Napolitano ha detto: la gravità della crisi impone, oltre all'assunzione dei provvedimenti più immediati, anche un'approfondita riflessione sui comportamenti e sui meccanismi che hanno concorso a determinarla e quindi sui rimedi idonei a scongiurare il ripetersi di situazioni di tale estensione e pericolosità. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Solo un messaggio, non un discorso di persona, sentivamo dal presidente Napolitano, perché questa mattina invece a Milano, dove è stata inaugurata la nuova sede dell'Università Bocconi. Anche qui il tema è stato la crisi e per noi c'è Sergio Nava. Buongiorno, è prossima alla conclusione l'inaugurazione del nuovo edificio dell'Università Bocconi a Milano. Si sta concludendo l'intervento del Presidente della Commissione europea José Manuel Durão Barroso. L'Europa ha dato una risposta senza precedenti, a sfide senza precedenti, ha detto Barroso nel corso del suo intervento. Barroso ha anche preannunciato quello che la Commissione europea farà il prossimo 26 novembre, il pacchetto anticrisi. Ha annunciato che farà proposte per rafforzare la regolazione delle agenzie di rating, farà un'iniziativa relativa alla paga dei manager e regolerà i derivati, gli hedge funds e private equity. Barroso ha anche aggiunto che occorre una riforma del sistema finanziario, in questo l'Europa e gli Stati Uniti dovranno giocare, dice il Presidente della Commissione europea, un ruolo centrale. Barroso ha anche posto dei paletti agli interventi che i governi europei e anche le istituzioni europee dovranno prendere: no a soluzioni nazionali, no a protezionismi e anche no allo stravolgimento delle regole della concorrenza e degli aiuti di Stato. All'inaugurazione era presente anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che entrando ha annunciato che riceverà una delegazione degli studenti dell'Università Bocconi. Ovviamente passiamo ora alla cronaca, alle manifestazioni degli studenti universitari. Ebbene, proprio gli studenti dell'Università Bocconi hanno scritto una lettera alla Presidente della Repubblica in cui chiedono una riforma, ma si sono detti completamente contrari a intraprendere un percorso del genere, così come è previsto dalla legge 133, che secondo gli studenti della Bocconi sottopone le università a una dieta forzata. Ovviamente la dieta è quella del taglio dei finanziamenti. E da Milano è tutto. E se siete curiosi e le volete vedere le immagini della nuova sede della Bocconi, in radio non si vedono, ma sul nostro sito sì, www.radio24.it. E intanto oggi riunione anche del Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno nuove iniziative sul tema dei rifiuti, ma anche la linea dura contro i graffitari. E allora sentiamo com'è andata a finire. Francesca Malaguti, buongiorno. In Campania potrà essere arrestato chi sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti ingombranti come materassi o lavatrici. È una delle novità che prevede il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, che completa il pacchetto dedicato all'emergenza rifiuti. Sentiamo direttamente l'annuncio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Guido Bertolaso. Con questa norma, che abbandona rifiuti pericolosi, speciali o ingombranti, può essere anche passibile di condanne da 6 mesi a 3 anni di reclusione. Se viene colto in flagrante può anche essere arrestato. La disposizione vale solo per la Campania e per quelle regioni in cui è stata riconosciuta l'emergenza. Il decreto prevede anche che sia possibile commissariare quei comuni che non fanno il proprio dovere nella raccolta dei rifiuti, cioè per intenderci che non svuotano i cassonetti o lasciano la spazzatura per strada. Inoltre in Campania i cittadini riceveranno un piccolo compenso quando depositeranno i rifiuti riciclabili come incentivo alla raccolta. Durante il Consiglio si è parlato anche del tavolo europeo sul clima. Non vogliamo farlo saltare, ha detto il ministro Ronchi, ma lavoriamo anche per tutelare le nostre imprese da misure troppo penalizzanti come quelle che, secondo il ministro Prestigiacomo, prevede il pacchetto europeo. Invece nessun decreto sul decoro urbano e sui graffitari, contrariamente alle indiscrezioni che erano uscite in un primo momento. E secondo quanto ha riferito il ministro La Russa durante il CDM, c'è stato anche un lungo applauso dei ministri a Maria Stella Gelmini, titolare dell'istruzione, a cui si riconosce il merito di aver contrastato un'ondata di falsità e disinformazione. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi la linea. Grazie a Francesca Malaguti. Governo compatto dunque a difesa di Maria Stella Gelmini, lo dimostra anche l'applauso in Consiglio dei Ministri, ma dopo le manifestazioni per scuole e università, accanto e piazze e strade da ripulire da palloncini e volantini, restano indubbiamente le polemiche. Soprattutto su un episodio, quello di Piazza Navona a Roma, dove ci sono stati tafferugli tra ragazzi di destra e di sinistra. E su questo l'esecutivo è stato chiamato oggi a riferire in aula alla Camera. Emerge come, anche in questa circostanza, l'operato delle forze dell'ordine sia stato ispirato a criteri di equilibrio e di prudenza. Per Francesco Nitto Palma, dunque, nessuna responsabilità della polizia. Gli scontri più duri di Piazza Navona sono stati avviati da un gruppo di circa 400-500 giovani dei collettivi universitari e della sinistra antagonista, che a suo dire hanno affrontato gli esponenti di blocco studentesco, i giovani di destra. Ma proviamo a ricostruire i fatti. Intorno alle 11 del 29 ottobre, studenti delle scuole medie superiori, circa 6.000, confluiscono in Piazza Navona. Poco lontano, funzionari della Digos notano due camioncini in sosta. Uno appartiene agli studenti di destra di blocco studentesco e l'altro agli studenti di sinistra. Intorno alle 11.30 si verifica un'aggressione isolata partita dagli studenti di destra per guadagnare la testa del presidio. Poi, dopo mezzogiorno, iniziano veri scontri, con tanto di lancio di tavolini e di sedie tra studenti di blocco studentesco che scaricano dal loro camioncino spranghe e catene e universitari di sinistra. La polizia non blocca subito i tafferugli. Prima di intervenire passano almeno 5 minuti. Bilancio finale, una quindicina di entrambi gli schieramenti politici gli indagati e due gli arrestati. Un uomo di 34 anni di Rifondazione Comunista e uno di 19 di blocco studentesco. Saranno processati il 17 novembre prossimo. Per Walter Verini del Partito Democratico la ricostruzione del governo non è abbastanza convincente. Si poteva prevenire, si poteva intervenire prima. Ecco, a questo interrogativi si devono dare davvero delle risposte. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E allora sentiamo su questo il commento di Daniele Biacchesi. In gergo si dice gestire la piazza. In caso di manifestazioni turbolente, con forti frizioni tra opposti schieramenti, magari vicino a luoghi istituzionali, per gli apparati dello Stato preposti all'ordine pubblico resta il compito più difficile. Sul piano professionale, il funzionario addetto alla piazza deve estemperare le tensioni, intervenire con lacrimogeni o con manganelli per disperdere i gruppi. Prima di fare tutto questo, un bravo poliziotto deve prevenire e per prevedere uno scontro violento deve conoscere i luoghi. L'altro ieri il luogo era Piazza Navona, vicino al Senato. Un pulmino guidato da estremisti di destra si è infiltrato nel corteo degli studenti medi. Mazze ferrate, tirapugni sono stati distribuiti da una squadretta di 20 ragazzotti dalla testa rasata con tatuaggi nazisti sulle braccia. Dall'altra parte c'erano quelli dei collettivi di autonomia, pure loro armate di spranghe. In questa ovvia miscela esplosiva sono nati gli scontri di mercoledì, ma i conti non tornano. Nazisti e autonomi sono ben conosciuti alle forze dell'ordine. Roma è fin dal 1975 terreno di battaglia tra fazioni. Come è potuto sfuggire alle forze dell'ordine il pulmino carico di spranghe e i volantini distribuiti nei giorni precedenti dai collettivi autonomi in cui si annunciavano violenze? Non resta dunque che gestire la piazza, prevedere e prevenire, perché l'orologio della storia non torni indietro nei tempi bui della democrazia. Ci si avvicina alla celebrazione in memoria dei defunti il 2 novembre, questa invece è la notte di Halloween. Culti e leggende fin dall'antichità scandagliano il rapporto tra vita e morte. Un binomio, forse molti magari lo sapranno, assai presente nel sottosuolo di Napoli. Ecco, e per chi invece non lo sapesse, ora viene raccontato tutto questo anche in un libro che sarà presentato sottoterra nelle grotte di Piazza Cavour l'8 novembre. E allora entriamo nella Napoli sotterranea. Dicono che nelle due città gemelle non ci sia più modo di sapere quali sono i vivi e quali i morti. E questo perché a Napoli pochi gradini verso il sottosuolo permettono di iniziare un viaggio millenario tra miti romantici ed esoterici, culti pagani e perenni credenze. Così sono sempre più i vivi che, come Italo Calvino, si lasciano traghettare nelle viscere dell'antica sirena. Intere aree del sottosuolo sono state utilizzate sin dai tempi dei Greci, quartiere dei Vergini, sanità, si è sviluppato questo straordinario culto delle anime del purgatorio, questo scambio tra vivi e morti. Io scelgo, teschio, quindi anima sospesa, con le mie preghiere ti permetto di andare in paradiso, tu in cambio attraverso i sogni mi rendi la vita un po' più facile. Per Antonio Piedimonte, autore di Napoli Sotterranea, non si può dire di averla davvero conosciuta la città se non si è passati dal frastuono dei vicoli alla penombra della terra di confine, laggiù dove scappano i monaci uccelli, fantasmi di bimbi dispettosi e si nascondono strati millenari di riti e sono sempre più gli appassionati che si inabissano nei percorsi aperti del sottosuolo, pochi rispetto alla grande città parallela dove è chiuso anche il celebre cimitero delle Fontanelle. La chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, dove si infilano ancora oggi le donne del quartiere e lasciano bigliettini davanti a quello che è conosciuto come il teschio di Lucia la sposa, con in testa il velo da sposa che racconta appunto la leggenda di una ragazza morta nel giorno del matrimonio. Il viaggio nei misteri non può che terminare all'antro della Sibilla, tra le cave flegree, mitologica porta dell'Ade. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:20, le notizie extra large. La stagnazione dell'economia durerà fino alla metà del 2009, lo dice il governatore della Banca d'Italia Draghi alla giornata mondiale del risparmio. I depositi degli italiani sono al sicuro, aggiunge, ma le banche siano attente alle esigenze delle famiglie, alle prese con la rata dei mutui. A mezzanotte scade il termine per l'offerta all'Italia, il governo convoca CAI e sindacati. Letta è il termine ultimo per la sopravvivenza. La città di Catania è ancora a caccia del vincitore del Super Enalotto, però ora ci vede meglio. Il prestito dello Stato fa infatti riaccendere i lampioni. 2 anni e pena scontata. Ivan Basso ha pagato per il doping ed è tornato a correre in bicicletta. Si è pentito? Glielo abbiamo chiesto. Il prossimo Giro d'Italia sarà quello del centenario, in programma dal 9 al 31 maggio del 2009. Prenderà il via da Venezia, questo è stato l'annuncio oggi del sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Tra i protagonisti del Giro dovrebbe esserci, ci sarà sicuramente anche Ivan Basso, di questo che ora parliamo. Sì, perché scontata la qualifica, il corridore varesino, sospeso dall'attività, ricorderete, per essere stato coinvolto nelle operazioni spagnole contro, nelle inchieste partite dalla Spagna contro il doping, tornano a correre e si racconta al nostro Dario Ceccarelli, racconta il suo viaggio per uscire dal doping e per tornare competitivo dopo il lungo stop. Allora Ivan Basso, è finito il purgatorio, che effetto ti ha fatto tornare nel gruppo? Ma è stata una sensazione bellissima, sono emozioni che è anche difficile descrivere a parole, però chiaramente era un momento atteso per tanto tempo ed è stato bellissimo. Cosa si prova a star fuori 2 anni dalle corse, dagli amici, da quegli appuntamenti che sono abituali per un corridore? Inizialmente è veramente brutto, non trovi pace, ma poi il tempo aiuta comunque a trovare la motivazione per andare avanti, le tue persone vicine, comunque senti l'affetto da parte loro e quindi la motivazione di continuare a fare il tuo lavoro, di tornare a correre, di tornare a vincere. È stata solo la prima fase molto molto difficile, ma poi lentamente sempre meglio fino ad arrivare alla fine. Hai mai pensato di smettere? No, no, assolutamente no, perché il ciclismo è parte della mia vita, io sono 25 anni che corro in bicicletta, quindi è difficile prendere una decisione del genere, soprattutto ho preferito farmene una ragione velocemente e dentro di me io ho sempre pensato di poter tornare a vincere e non avevo paura del confronto, comunque di quello che mi aspettava. Ho pensato solo a come lavorare, poi chiaramente trovare una squadra come la Liquigas che ti dà fiducia e investe su di te è diventato tutto più facile. In questi casi cosa si fa? Si ricorre agli amici? Ci si continua a allenare come se niente fosse? C'è qualche piccolo trucco per riuscire a resistere? Non esistono tanti segreti in questo. La prima cosa è trovare la propria serenità, perché comunque nessuno ti possono dare dei consigli, ma poi alla fine quando ti addormenti la sera, quando ti svegli al mattino, sei tu che devi agire, che devi far passare le ore o comunque trovare la soluzione del problema. Io chiaramente non, a partire dagli affetti familiari, da mia moglie, i miei figli, che sono la cosa più importante, ho comunque trovato tante persone che mi hanno aiutato e questo credo che è stato anche per il mio atteggiamento negli anni precedenti, sempre di grande onestà, alla fine poi mi ha aiutato in questa situazione. La prima corsa del 2009 quale sarà? Abbiamo deciso di debuttare in Argentina perché è una corsa che nel mese di gennaio io sento il bisogno di affrontare delle corse da subito per ritrovare il giusto ritmo, il giusto colpo di pedale, lavorare con i compagni e quindi con la squadra, con la Liquigas abbiamo deciso di debuttare nella prima settimana di gennaio, partire per l'Argentina e quindi fare la Vuelta a San Luis, che è una corsa non difficilissima, però che servirà appunto per ritrovare il ritmo della corsa. Ecco, 2 anni di stop sono tanti. Ti sei pentito? Sei arrivato a qualche conclusione? Ma io è chiaro che mi sono pentito. Provi un senso di colpa, di vergogna molto spesso, no? Però poi io credo che, come è stato negativo l'episodio, comunque tutta la gestione della vicenda, non chiaramente è stato tutto sbagliato, e su questo ormai l'ho detto più volte e credo che non serve neanche più ripeterlo. La gente ha capito l'errore, ha capito che io mi sono sentito in colpa, che ho pagato fino in fondo, e però ha anche altrettanto apprezzato il mio atteggiamento, la mia anche dignità nel lavorare in silenzio per 2 anni e ripresentarmi alle corse con non uguale a prima, ma con delle differenze, uguale a prima nel termine della prestazione e dei risultati. Però in questo momento un esempio è proprio chi vuole capire come io sono arrivato così in forma alla Japan Cup, ha la possibilità di collegarsi al mio sito, entrare nel link degli allenamenti, registrarsi e a quel punto capire come mi sono avvicinato alla corsa, quanti allenamenti, e trovare anche dei test di valutazione, esami, e quindi avere una garanzia che le prestazioni sono al di sopra di ogni sospetto. Tu torni nell'anno in cui Armstrong verrà al Giro d'Italia. Ha fatto bene secondo te? Tu pensi di poterlo battere? Ma guarda, io credo che è chiaro che non parti battuto. Il fatto che Armstrong abbia deciso di tornare a correre fa capire da subito che tornerà esattamente forte come prima, e quindi questo complica di molto le cose per i suoi avversari. Però per quanto mi riguarda non parto battuto, credo di avere la possibilità di lavorare nel modo giusto e di almeno avere nella mia testa, e comunque nella testa anche della mia squadra, quella di avere una possibilità di batterlo, altrimenti correre per già battuti non è giusto. Poi chiaramente se sarà forte come prima o comunque magari anche più di prima, pazienza, voglio dire. Tu, Ulrich, poi Ricò, tanti altri, il ciclismo si è fatto una brutta fama nella visione della gente, che per vincere bisogna avere un aiutino, un aiuto in più. Ma si può vincere senza doping? Allora, vorrei fare una precisione. A me non piace molto parlare di queste cose, ma proprio perché mi sento la persona meno indicata per dare giudizi o commenti. Credo che quello che io ho fatto, i passaggi che ci sono stati per il mio ritorno alle corse, danno una risposta a questa domanda. Se io ho deciso di mettere online tutto quello che una persona può richiedere, credo che la risposta viene da sé. Chiaramente tutto questo sarà anche confrontato con le mie prestazioni, quindi uno ha veramente tutto per poter dare un giudizio a 360 gradi. Ivan Basso, che torna a correre, al microfono di Dario Ceccarelli. Ora andiamo a Catania, dove, risolta la crisi finanziaria del comune, grazie, come sapete, all'intervento del governo, si iniziano a vedere i segni della ripresa, a cominciare dalle luci dei lampioni. Tornano ad illuminarsi le strade di Catania metro a metro e sono nelle vie del centro. L'amministrazione comunale infatti comincia a pagare i debiti accumulati con il raggruppamento di imprese di cui il capofila è l'Enel, 21 milioni di euro, tanto ammontano le bollette lasciate in rosso dalla vecchia amministrazione. Entro il 31 dicembre l'attuale sindaco si è comunque impegnato a versare i primi 10 milioni, di cui uno già pagato da qualche giorno. Da quasi un anno però in città l'erogazione dell'energia elettrica, ma soprattutto la manutenzione, non viene garantita, e così su molti quartieri, specie in periferia, è calato il buio, mettendo ancora più a rischio la sicurezza dei cittadini. Letizia Carrara, GR24, Il Sole 24 Ore, Catania. E a proposito di Catania, tra l'altro c'è da dire che ancora niente si sa, dopo tanto clamore, nessuna notizia sul super fortunato che si è aggiudicato il 6 al Superenalotto, 6, lo ricordiamo, da 100 milioni di euro. Niente Superenalotto a Roma, ma la festa del cinema avrebbe avuto tutte le carte per vincere la rassegna, ma è stato messo fuori concorso, come tante sorprese italiane nelle ultime mostre di Venezia, da Molaioli a Zanasi l'anno scorso, a Di Gregorio quest'anno. Si può fare, che esce oggi nei cinema, è stato il film più applaudito all'Auditorium di Roma. Una storia che fa ridere e commuovere. È la storia vera di Nello, sindacalista, che all'inizio degli anni Ottanta viene mandato a Milano in una cooperativa di ex malati mentali dimessi dai manicomi in seguito alla legge Basaglia. 11 matti che verranno lentamente riscattati dalla passione di Nello, che decide che la strada per loro è quella di avere un vero lavoro. Ma perché mi discoraggia? Io mi faccio un mazzo così per motivarli. Lei li illude. Questi sono malati di mente. Non sanno neanche incollare i francobolli. Però sanno prendere in giro i dottori. Si può fare, è diretto da Giulio Manfredonia. Noi abbiamo cercato di trattare questo argomento onestamente. Allora, onestamente bisogna dire che la legge Basaglia racconta una grande utopia. Se cavalcata senza il buon senso, sia, come dire, inapplicabile. Poi la realtà è che bisogna convivere con ogni forma di disagio, di malattia, di diversità e quindi anche con la pazzia. Sei uscito da tutta città, queste strade non esistono, devi tornare a tutta città. Forse è meglio chiedere a qualcuno. No, io mi vergogno, aspettiamo che chiedano loro. I matti sono in realtà straordinari attori. Per la parte hanno provato per 3 mesi in 30 e solo 11 alla fine sono stati scelti. Il sindacalista invece è un bravissimo Claudio Bisio. Ho 51 anni, in quegli anni lì, negli anni 70, anche un po' prima di quelli del film, ne avevo 20 appunto, la matematica non è un'opinione, e quindi facevo il liceo, ero anche impegnato politicamente, allora si mitizzava anche un po', no? la anormalità. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13:36 minuti, GR24 Extra Large. A mezzanotte scade il termine per l'offerta all'Italia. Il governo convoca CAI e sindacati. Letta è il termine ultimo per la sopravvivenza. La stagnazione dell'economia durerà almeno fino alla metà del 2009, dice il governatore della Banca d'Italia Draghi nella giornata mondiale del risparmio. I depositi degli italiani sono al sicuro, aggiunge, ma le banche siano attente alle esigenze delle famiglie. Rallenta l'inflazione, prezzi fermi tra settembre e ottobre, il dato su base annua scende da un più 3,8 a un più 3,5% e dopo 2 anni negativi anche i prezzi alla produzione. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha incontrato una delegazione degli studenti all'Università Bocconi, intanto il governo riferisce sugli scontri a Piazza Navona. Le violenze sono state avviate da giovani dei collettivi universitari e della sinistra antagonista. Obama McCain, poche ore alla sfida, i democratici ancora in vantaggio nei sondaggi, sarà l'elezione più seguita sul web. Catania caccia ancora del vincitore del Superenalotto, ora ci vede meglio. Il prestito dello Stato fa riaccendere i lampioni. Dunque, come detto, anche nei titoli rallenta l'inflazione in Italia. Prezzi fermi tra settembre e ottobre. Il dato su base annua scende così da un più 3,8 a un più 3,5%. Dopo 2 anni fermi anche i prezzi alla produzione. Allora, come interpretare queste indicazioni? Ci aiuta Donato Berardi, economista del REF. Il dato di quest'oggi di per sé è una buona notizia. È una buona notizia perché configura un'inversione di tendenza. È un 3,5% che è comunque un dato alto, quindi siamo comunque sui massimi di inflazione degli ultimi 10 anni e oltre. È una buona notizia che viene dalla congiuntura internazionale, quindi in particolare viene dal ribasso delle materie prime. Si sgonfiano 2 focolai che sono quelli che hanno tenuto alta l'inflazione nel 2008, da una parte quello dei prezzi dei prodotti alimentari e dall'altro quello dei prodotti energetici. È evidente che in questo momento questo ribasso, tanto sui prezzi alla produzione quanto sui prezzi a consumo, è trainato dall'impatto diretto del petrolio più che dell'alimentare. Per ora non si può dire che ci siano retrazioni sulla domanda, quindi che questo sia già il frutto di un rallentamento dei consumi. Ahimè, però, i destini, come dire, per i consumi sono un pochino segnati per il prossimo anno, nella misura in cui le previsioni più aggiornate che stiamo formulando in queste settimane già prospettano, come dire, passi indietro per la domanda delle famiglie. Quindi è una buona notizia perché restituisce un po' di potere d'acquisto e sicuramente è un inizio di percorso, perché torneremo intorno alla metà del prossimo anno su valori non distanti dal 2%, è un po' di potere d'acquisto che torna alle famiglie, evidentemente un pochino più di rischi a questo punto si pongono per l'economia reale, ma questo, come dire, fa parte appunto delle cose che commentiamo in qualche modo tutti i giorni sui giornali, sui media. Così dunque Donato Berardi, economista del REF. Notizie sicuramente meno incoraggianti, quelle che arrivano invece per quanto riguarda il futuro di Alitalia. A mezzanotte scade il termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Il governo ha convocato sindacati e CAI, ma poco fa è arrivato un ultimatum sia dal governo sia dalla CAI. Andrea Viali. Sì, dunque Anna, come stai dicendo tu, il governo Di nuovo costretto a scendere in campo per sbloccare la trattativa, sempre più difficile sembra, su Alitalia, i vertici della compagnia aerea italiana e quelli delle 9 sigle sindacali che rappresentano tutti i lavoratori di Alitalia. In questo momento sono a colloquio con il sottosegretario Letta e i ministri Sacconi, Matteo e Scaiola. Un intervento, quello del governo, necessario dopo la rottura delle trattative avvenuta nella notte fra mercoledì e giovedì, quando la CAI, lo ricordiamo, ha abbandonato il negoziato con i sindacati su contratti e selezione del personale che confluirà nella nuova Alitalia. Una mediazione in extremis, visto che, come ricordavate, alla mezzanotte di oggi scade il termine che è stato fissato dal commissario straordinario di Alitalia Fantozzi per presentare le offerte per l'acquisto della compagnia aerea. Offerta che la CAI dovrebbe formalizzare nel consiglio di amministrazione in programma oggi pomeriggio, solo però a condizione che venga raggiunto un accordo col sindacato, e vedremo se a questo punto l'intervento dell'esecutivo riuscirà ad avvicinare le parti, perché in caso contrario Alitalia tornerebbe a prospettarsi il rischio di un fallimento. E su questo avrebbe insistito, secondo indiscrezioni, anche il sottosegretario Letta nel corso dell'incontro con i sindacati, ricordando che appunto, arrivati a questo punto, non ci sono più margini per una trattativa. Mentre, sempre secondo indiscrezioni, nel corso dell'incontro il presidente di CAI, Colaninno, avrebbe detto: senza firma sui contratti la CAI è fuori dall'affare, dalla trattativa su Alitalia. Questa è l'indiscrezione dell'ultima ora di Colaninno, per il momento da Palazzo Chigi. Grazie Andrea Viali. Adesso cambiamo pagina, 4 giorni al voto americano. Andiamo allora sui giornali stranieri con Gigi Donelli, vediamo un po' come viene annunciata questa notizia. Quest'ultima fase, diciamo, 4 articoli per 4 giorni. Allora andiamo dritti sulla stampa americana. Vi segnalo dal New York Times che un articolo, come dire, evocativo, dice: in una corsa molto serrata i vincitori in Ohio potrebbero essere gli avvocati, cioè ci si prepara già a dei problemi legali e a delle discussioni intorno al voto. Non dimentichiamo quello che accadde 4 anni fa in Florida. Per quanto riguarda il Seattle Times, quindi balziamo da una parte all'altra degli Stati Uniti, si ritrova lo stesso tema. Nell'elezione di martedì non deve più accadere quello che accadde a King County nel 2004. Per noi questo è un posto assolutamente inesistente, questa contea del re. Per gli americani è uno di quelle contee dove il voto fu discusso fino all'ultimo momento e dove molte teste sono saltate perché il voto venne definito sostanzialmente illegittimo. E quindi il più importante quotidiano dello stato di Washington, quindi la parte naturalmente dello stato del Pacifico, si preoccupa che non accada più ciò che accadde 4 anni fa. Juno Empire, il giornale diciamo di casa di Sarah Palin, quindi dell'Alaska, che invece si lamenta di un altro problema. Dice: il governo Palin ormai avviene per email. Insomma, gli alaskani si lamentano che durante la campagna presidenziale non solo la governatrice è assente, ma l'intero staff. E quindi, mentre si combatte per la Casa Bianca, si rischia di non gestire più lo Stato stesso. Un'ultima cosa invece molto seria da parte del Washington Post, che dice: cosa sta facendo Bush in questi giorni? Beh, pare che stia preparando l'ultimo, diciamo, segno, l'ultima firma della sua presidenza con un pacchetto di leggi di deregulation che, secondo il Washington Post, sarebbero un impatto estremamente forte per quanto riguarda i problemi ambientali, e l'inquinamento, l'energia. Insomma, il Washington Post dice: attenzione, perché in questi ultimi giorni il Presidente degli Stati Uniti sta lavorando alacremente con un pacchetto di legge che potrebbe in qualche modo condizionare i prossimi 4 anni. E dunque vedremo cosa succederà. Grazie Gigi Donelli. Noi cominciamo anche a lanciare il nostro appuntamento per la lunga diretta, che tra l'altro anche col nostro Gigi Donelli cominceremo alle 21 della sera del 4 novembre, e continueremo poi per tutta la notte fino grosso modo alle 11 del mattino del giorno dopo per i risultati delle elezioni americane, ma continueremo ovviamente se sarà necessario. E già che abbiamo il nostro Gigi Donelli, il momento del libro, e sappiamo una cosa che incuriosirà il nostro Gigi. Magistrati che diventano scrittori, un binomio ormai di successo, tanto che va ad uno di loro, Gianrico Carofiglio, il premio Grinzane Noir, che verrà assegnato nel fine settimana sul Lago d'Orta in Piemonte. Premi che testimoniano come questo genere di gialli, oltre a conquistare il pubblico, stanno iniziando ad interessare anche la critica. In principio fu Scott Turow e lui, l'avvocato americano dell'Illinois, amico di Barack Obama, autore di Presunto Innocente, il padre del legal thriller, romanzi che girano intorno a casi giudiziari più o meno complessi. Da questa parte dell'oceano, lo scettro è stato passato in mano a Gianrico Carofiglio, magistrato prestato dal 2002 anche alla scrittura. Testimone inconsapevole, ragionevoli dubbi, Il passato è una terra straniera, dal quale è stato tratto un film ora nelle sale, questi i titoli più noti dello scrittore barese. Libri nei quali la sua esperienza di magistrato si è rivelata fondamentale, come lui stesso ci racconta. Io credo che le esperienze vissute siano il carburante per inventare storie che meritano di essere lette, che però sono diverse dalla biografia, dall'autobiografia o dalla realtà, diciamo. Per fare una narrazione credibile in un determinato contesto è necessario sapere come funziona quel contesto, che cosa c'è sul fondale. Altro illustre esponente di questo binomio giustizia-letteratura è Giancarlo De Cataldo, giudice a Roma e autore del bestseller Romanzo criminale, da cui è stato tratto un film e ora anche una serie TV. Non si tratta però solo di una moda. Per qualcuno scrivere libri, in questo caso saggi e non romanzi, è un modo per cercare la verità anche al di là dell'aula giudiziaria, come confessa Ferdinando Imposimato, magistrato di casi celebri come il rapimento Moro e l'attentato al Papa. Quello che il magistrato non è riuscito a fare, come è accaduto a me diverse volte come magistrato, può cercare di farlo come storico e così può cercare di colmare dei vuoti che sono molto spesso gravi nella ricerca della verità di fatti storici, come nel caso del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:48 minuti, le notizie di oggi. Ultimatum di Colaninno: senza la firma dei sindacati al contratto, la CAI è fuori. A mezzanotte scade il termine per l'offerta all'Italia. Il governatore della Banca d'Italia Draghi nella giornata mondiale del risparmio. I depositi degli italiani sono al sicuro, dice, ma le banche siano attente alle esigenze delle famiglie. Il capo dello Stato Napolitano ha incontrato gli studenti dell'Università Bocconi. Il governo riferisce sugli scontri a Piazza Navona. Le violenze sono state avviate da giovani della sinistra antagonista. Congo nel caos, una catastrofe umanitaria, dice la Croce Rossa, una battaglia per le risorse minerarie. Partiamo proprio dalla crisi in Congo, perché il ministro degli esteri francese Bernard Kouchner, che ha ripetutamente detto di essere favorevole all'invio di militari dell'Unione Europea, partirà oggi pomeriggio per Goma, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, teatro da fine agosto di scontri tra i ribelli e le truppe regolari. Siamo alla catastrofe umanitaria, dice la Croce Rossa, il rischio è che la diplomazia arrivi nuovamente troppo tardi. I violentissimi combattimenti che negli ultimi mesi hanno sconvolto il nord-est del Congo hanno provocato una catastrofe umanitaria. Lo denuncia la Croce Rossa e lo confermano le Nazioni Unite, ricordando che decine di migliaia di profughi sono in fuga dal capoluogo regionale Goma, dove case e negozi sono stati saccheggiati e dove la popolazione, soprattutto donne e bambini, è vittima di gravi violenze. La guerra in Congo si trascina dall'agosto 1998, ma i focolai di tensione non si sono mai spenti. Quest'ultimo conflitto, scoppiato tra ribelli guidati dalla generale Laurent Kunda e finanziati dalla Ruanda e l'esercito regolare, non è un conflitto etnico. In gioco c'è l'immensa ricchezza di risorse naturali del Congo, come ci spiega padre Giulio Albanese, missionario comboniano, fondatore dell'agenzia MISNA. È una guerra che ha innanzitutto e soprattutto un significato, una valenza economica, legata al controllo delle immense risorse minerarie di questo paese, dell'ex Zaire, una miniera a cielo aperto dove vi sono diamanti, oro, soprattutto tanto coltan, detto anche rutilio, lega naturale di Columbio e Tantalio. Il Tantalio viene utilizzato nella tecnologia, nella telefonia mobile, viene utilizzato addirittura per confezionare i cosiddetti videogiochi ed è chiaro che gli interessi internazionali sono molto molto evidenti. Secondo le agenzie internazionali, dal 98 ad oggi hanno perso la vita circa 5 milioni di persone, ma la guerra del Congo è una delle tante guerre dimenticate. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Andiamo nel mondo arabo con Nadib Fateh Ali. Presidenziali USA e il patto di sicurezza tra Washington e Baghdad al centro dell'attenzione della stampa araba di oggi. Sheikh Al-Awsat e Al-Hayat aprono insieme sull'annuncio di Washington sui margini ridottissimi delle trattative per l'accordo di sicurezza USA-Iraq, mentre per Al-Quds Arabi, che titola sulle presidenziali USA, la transizione del potere in Egitto, la successione al trono saudita e il conflitto tra sunniti e sciiti nell'Islam saranno i principali nodi da sciogliere in Medio Oriente per chi, tra McCain e Obama, conquisterà la Casa Bianca. Lavorano 19 ore al giorno ed invece della paga vengono sistematicamente prese a calci e sputi dai loro datori di lavoro. E quando succede alle lavoratrici asiatiche che lavorano nelle case giordane, secondo una denuncia di Amnesty International citata dal sito web Al-Arabiya. La stessa emittente TV mette in rilievo una causa intentata da un lavoratore saudita in Gran Bretagna contro una catena di negozi a Birmingham. Volevano che caricassi sul camion casse di bottiglia di alcol e non hanno accettato di darmi un lavoro non in contrasto con la mia fede islamica, è quanto denuncia il giovane. Venerdì i nostri consigli prima di mettersi alla guida. Quello che vorrei trattare oggi in realtà potrebbe sembrare un argomento un po' scontato, no? Quello dell'assicurazione auto, quando si parla di automobili, di sicurezza stradale, però a quanto pare dagli ultimi dati sembrerebbe che molte persone si scordino oppure omettano di assicurare la propria auto, che è atto fondamentale questo, altrimenti non si può circolare con l'automobile. E chiedo a Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza, quale può essere il motivo e anche di ricordarci a che cosa serve e che cosa dice la legge. Silvio. Ecco, per quanto riguarda la nostra esperienza diretta sulla strada, il motivo è sempre quello economico. Molte volte addirittura costa meno l'autovettura che viene presa in strausata, esatto, con molti anni alle spalle, che non è invece l'assicurazione, e in alcuni casi non è percepita l'assicurazione nella sua reale importanza, perché è quella che ci solleva dalla responsabilità civile, quella che interviene per pagare i danni che possiamo causare alla guida del veicolo. Danni che possiamo causare sia alle auto di altri mezzi, ma anche alle persone stesse. Esattamente, sono danni estremamente ingenti che solitamente creano veramente un disagio economico notevolissimo. Figuriamoci poi per chi non aveva nemmeno il denaro per pagarsi la quota assicurativa. Quindi non può essere tanto per ignoranza, perché io penso che tante persone, magari di un certo tipo, di una certa età, non lo so, se ne dimentichino addirittura, però probabilmente credo la maggioranza sia per il motivo che dici tu, per questioni economiche, soprattutto in questo periodo magari, no? Io credo di sì, anche perché adesso normalmente quasi tutte le compagnie assicurative ne curano il cliente, si preoccupano di informarlo. Dobbiamo anche ricordare purtroppo che ci sono delle conseguenze serie nel caso in cui avvenga un controllo e non ci sia l'assicurazione operante. La sanzione è piuttosto elevata, perché si tratta di 742 euro e per di più c'è l'immediato sequestro del veicolo, proprio perché il veicolo in quelle condizioni non può circolare. Ricordiamo altresì, in questo caso forse c'è ancora qualche sacca di mancata informazione, l'assicurazione obbligatoria è necessaria anche per i ciclomotori. Ciclomotori ormai di qualsiasi cilindrata, no? Perché esatto, anche i motorini, i cinquantini hanno la targa. Esatto, precisamente è necessario assicurare qualunque veicolo a motore. Silvio, a chi in questo momento si trovasse appunto con l'assicurazione scaduta o non la fa da diverso tempo per dimenticanza o per questioni economiche, cosa consigli quindi immediatamente di fare? Immediatamente di recarsi presso un luogo privato, no? Perché ricordiamo che anche la macchina ferma sulla pubblica via deve essere assicurata, di ricoverare la macchina in un luogo privato, se non si hanno i soldi magari di prendere l'autobus, di non circolare assolutamente con un'auto non assicurata e appena possibile rendere operante una garanzia assicurativa. Grazie Silvio Scotti, Roberta Giordano vi invita naturalmente sempre ad assicurare l'auto e a guidare con intelligenza. Ultimatum di Colaninno: senza la firma dei sindacati la CAI è fuori, a mezzanotte scade il termine per l'offerta all'Italia. Banche attente alle famiglie, nella giornata del risparmio l'appello del governatore Draghi. E intanto insieme ai consumi cala l'inflazione, a ottobre scende al 3,5%. Il Consiglio dei Ministri applaude Maria Stella Gelmini, gli scontri a Piazza Navona, colpa dei ragazzi di sinistra, dice il governo. Congo nel caos, una catastrofe umanitaria, dice la Croce Rossa, in atto una battaglia per le risorse minerarie. Catania riaccende le luci, ecco il primo effetto del prestito dello Stato. Alessio Maurizi e Anna Migliorati in studio, è tutto per questa edizione del GR Extra Large, al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Buon fine settimana, XL torna come sempre lunedì. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.